Mario Ricci. Una croce, una X, a cancellare un nome dalle cronache calcistiche, perché chi lo portava addosso quel nome, Vittorio Staccione, era sì un campione del calcio italiano degli anni 30, ma anche un simpatizzante socialista e un orgoglioso oppositore del regime fascista. E oggi invece, pietre d'inciampo poste a Torino e nelle nostre strade di altre città italiane, per tenerli vivi nella memoria, quei nomi, che non sono bastati gli anni, l'oblio, l'odio, la morte a cancellare. Oggi a Olimpia vi raccontiamo la storia di quella X, di quella croce e di queste pietre d'inciampo e di questo campione, Vittorio Staccione, seguendo le sue tracce attraverso un libro prezioso, Il mediano di Mauthausen, edito da Diacros, e grazie alle voci dei suoi autori, il giornalista cosentino Francesco Veltri e Federico Molinario, che di Vittorio e Francesco Staccione è il pronipote. Una storia che emerge da archivi polverosi e piccoli indizi seminati negli anni, sottolinea Veltri. È stata una scoperta quasi casuale un po' di anni fa. Avevo scoperto, io sono di Cosenza, quindi avevo scoperto che un ex calciatore del Cosenza degli anni 30, appunto Vittorio Staccione, aveva giocato a Cosenza 3 anni ed era morto a Mauthausen. Da quel momento in poi ho cominciato un pochettino a fare delle piccole indagini nella mia città, tra biblioteche e altre cose che ho scoperto qui, e ho fatto ho scritto un articolo sulla storia di Vittorio Staccione. Dopo qualche anno sono riuscito a mettermi in contatto anche con la famiglia, e da lì in poi è iniziata questa collaborazione, ma anche amicizia. Abbiamo cominciato un po' a fare le ricerche in maniera approfondita, e da lì poi è venuta fuori un po' questa storia bellissima, ma anche purtroppo terribile. Ma che tipo di calciatore era Staccione? Veltri, a furia e a di studiare, se ne è fatta un'idea piuttosto precisa. Vittorio Staccione era un centromediano, io un po' diciamo che era un centromediano, veniva definito proprio così, quindi giocava davanti la difesa, molto bravo anche sulle fasce, veniva spesso impiegato anche da esterno, però il suo ruolo ovviamente era quello di mediano. Diciamo che era un Gattuso con i piedi buoni, ovviamente il suo compito non era quello di costruire la manovra, ma era quella di rincorrere l'avversario, di correre e sudare per i suoi compagni più dotati tecnicamente, ma non era messo malissimo tecnicamente, almeno questo da quello che sono riuscito a ricostruire anche leggendo diversi articoli di giornale dell'epoca. L'approdo a Cosenza sorprende, vista la qualità del giocatore. Non stupisce però, date le sue simpatie politiche. Vittorio Staccione era considerato in quegli anni uno dei calciatori più forti, più emergenti del calcio italiano. Aveva iniziato la sua carriera nella sua Torino, aveva vinto anche uno scudetto col Torino, poi era passato un anno a Cremona per via del servizio di leva, poi era tornato a Torino, poi era passato alla Fiorentina, 3 stagioni splendide a Firenze, però ovviamente al calcio lui aveva sempre unito questa passione per la politica, in special modo per l'antifascismo, e ovviamente queste sue, chiamiamole simpatie, alla lunga le ha pagate care. Il presidente della Fiorentina di allora, il marchese Ridolfi, dopo averlo protetto per tantissimo tempo, alla fine è stato costretto a mandarlo via e non è riuscito a piazzarlo da nessuna parte, né in Serie A né in Serie B, ma è riuscito a mandarlo soltanto in Serie C a Cosenza. Cosenza è stata una tappa non facile all'inizio. Vittorio Staccione ovviamente desiderava giocare in categorie migliori, desiderava tornare nella sua Torino, man mano però, grazie anche all'affetto della piazza cosentina, è riuscito anche lì a dimostrare ovviamente tutto il suo talento, tutte le sue capacità. Una bella adunata di 6.000 dopolavoristi cremonesi e delle province limitrofe. La colonna, perfettamente inquadrata su motocicli, motocarrozzette e biciclette, attraversa le vie cittadine alla presenza di Sua Eccellenza Farinacci, del prefetto e del federale, fra calorose dimostrazioni di cameratismo della folla assembrata lungo il percorso. Il passaggio a Cremona, poi, è emblematico del clima politico dell'epoca e delle umiliazioni che Staccione dovette subire. A Cremona Vittorio arriva per via del servizio di leva, il Torino lo manda in prestito a Cremona, gioca lì per un anno e mezzo circa, La particolarità di Cremona qual è? Che Vittorio Staccione, dopo le partite, sulle cronache locali, in special modo su Cremona Nuova, che era il giornale diretto dal RAS di Cremona, Roberto Farinacci, che ovviamente chi conosce un po' la storia del fascismo, del ventennio fascista, conosce bene questa figura. Roberto Farinacci, dicevo, direttore di Cremona Nuova, non voleva che il nome di Vittorio Staccione, che era già comunque considerato un sovversivo, un antifascista, nonostante fosse ancora giovanissimo all'inizio della sua carriera, non voleva che il suo nome venisse riportato sui giornali, sul suo giornale Cremona Nuova, e ordinava ai suoi cronisti di inserire al posto del nome, sui tabellini delle partite della Cremonese, una X al posto del nome di Staccione. Anche le cronache redatte dai giornalisti del tempo erano davvero surreali, cioè si faceva davvero difficoltà a non citare il nome di Vittorio Staccione, che spesso risultava il migliore in campo. Leggerle ovviamente mi ha fatto un po' anche simpatia, oltre ovviamente a un senso di smarrimento, perché davvero ti rendevi conto di quanto all'epoca opporsi a quel regime, opporsi a quell'ideologia, era davvero difficile anche per un calciatore di Serie A. Anche le ricerche fatte negli archivi di famiglia confermano i controlli della polizia fascista su Vittorio e Francesco Staccione, sottolinea Federico Molinario. Dal punto di vista familiare, cose del genere, io ho potuto attingere a una piccola memoria che ho ritrovato, diciamo, nella famiglia. Piccola, dico piccola perché purtroppo durante l'arresto di tutti e due i fratelli, avvenuto nel 44 dopo gli scioperi del primo marzo, durante questi arresti appunto gli appartamenti dove vivevano, le case dove vivevano, erano state perquisite proprio per trovare documenti, lettere, nominativi per poter diciamo cercare di arrestare altri antifascisti, e quindi letteralmente le case sono state saccheggiate dalle SS, e quindi documenti ce n'erano veramente pochi, per cui in questi anni ho fatto delle ricerche aiutandomi anche su internet ovviamente, ma ho preferito affrontare, diciamo, gli archivi di Stato con materiale cartaceo, e devo dire che purtroppo ne ho trovato tantissimo, nel senso che l'archivio di Stato di Torino, ho trovato dei fascicoli dell'ufficio politico della Questura registrati all'archivio di Stato, decisamente corposi, con decine e decine e decine di arresti, di interrogatori, di richieste di informazioni, perquisizioni, veramente un sistema proprio di controllo che hanno subito questi due fratelli, veramente veramente pesante. Avevo promesso che non sarebbe trascorso l'anno decimo del fascismo senza che io avessi visitato la vostra città. Torino è una città romana. Negli anni 30, gli anni dell'apogeo fascista, in casa Staccione si respira invece tutt'altra aria, un'aria di ribellione, rivolta, libertà, come racconta ancora Francesco Veltri. Suo padre Achille era un socialista della prima ora, così come anche suo fratello maggiore Francesco, più grande di lui di 10 anni, era iscritto al Partito Socialista. Da lì in poi Vittorio, già in giovanissima età, sentendo anche in casa questi discorsi molto accesi anche fra il papà Achille e suo fratello Francesco su scioperi, serrate nelle fabbriche, considera che entrambi, sia Achille, il padre di Vittorio, che Francesco, erano operai nelle fabbriche anche della Fiat, quindi spesso, diciamo, in quegli anni vi erano delle rivendicazioni anche abbastanza forti, violente anche per certi versi. L'Italia veniva dalla fine della prima guerra mondiale, vi era una grande crisi economica, il paese stava attraversando una grande crisi, e ovviamente questo poi si sentiva molto nelle fabbriche. Aggiunge a tutto ciò poi l'arrivo anche del PNF, il Partito Nazionale Fascista, che ancora di più va ad aggravare la situazione nel paese, e comunque, diciamo, ancora di più l'ideologia socialista viene sentita, viene avvertita anche da Vittorio Staccione. Poi Vittorio Staccione però nel 1921, dopo il congresso di Livorno, insieme a suo fratello Francesco decide di cambiare, di passare al Partito Socialista, al Partito Comunista. Comunque gli ideali, i valori sono sempre quelli. A testa alta, in campo, come in strada, come in fabbrica, così voleva vivere Vittorio Staccione, anche negli anni più bui della storia del mondo e del nostro paese. pagherà a caro prezzo il suo sogno di libertà, lasciandoci però una testimonianza di straordinario valore civile. Fra pochi istanti, ancora insieme, qui a Olimpia. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a un giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a un giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Olimpia. Nell'ultima incursione su Torino vengono colpiti chiese, opere di bene, edifici pubblici. Per la seconda volta, un'opera benefica, cara particolarmente ai torinesi, l'ospizio del Cottolengo, è stata bersaglio del nemico. Colpito è anche l'ospedale civile. Torino 1944. Il fascismo mostra la corda, ma la fine della Seconda Guerra Mondiale è ancora lontana. I bombardamenti alleati devastano le città italiane, tra cui la stessa Torino, dove era nel frattempo ritornato Vittorio Staccione, il calciatore di cui oggi stiamo ripercorrendo la parabola, grazie alle testimonianze del giornalista Francesco Veltri e del pronipote di Staccione, Federico Molinario. È proprio Veltri a raccontarci dell'impegno politico cui Staccione si dedica non appena appesi gli scarpini al chiodo. Vittorio smette di giocare presto, prestissimo, a 31 anni, ritorna dopo l'esperienza di Torre Annunziata, perché per qualche mese Vittorio dopo Cosenza passa anche al Savoia di Torre Annunziata, ma si fa male subito, decide di smettere con il calcio, quindi giovanissimo, torna a Torino, inizia a fare l'operaio grazie anche all'aiuto di suo fratello Francesco in diverse fabbriche di Torino, e da lì la sua coscienza critica anche va sempre più aumentando. Vittorio studia anche, non aveva avuto l'opportunità di studiare tanto ovviamente nella sua giovane vita, comincia anche a studiare, inizia a partecipare anche riunioni clandestine, sempre vicino agli operai delle fabbriche, pian piano anche si avvicina ai partigiani, ai movimenti partigiani presenti in città. Al momento dell'insurrezione, l'azione determinante nasce dalle fabbriche. Gli operai occupano le officine e, utilizzando i macchinari per produrre armi, le trasformano in roccaforti imprendibili che sconvolgono ogni piano difensivo nazista. Le fondamenta del regime nazifascista iniziano a sfaldarsi, ma Staccione non fugge. Vittorio decide di rimanere a Torino, di combattere, di opporsi a quello che sta accadendo. Torino è bombardata quasi ogni giorno, anche dai bombardamenti alleati. La sua famiglia, quasi tutta la sua famiglia, quindi suo padre, suo fratello Eugenio, che è un'altra figura importante della sua vita, Eugenio Staccione, è stato anche un giocatore di calcio proprio del Torino e anche della Juventus, tra l'altro ha vinto anche due scudetti con entrambe le squadre. Insomma, tutta la famiglia Staccione decide di abbandonare Torino, si trasferisce nei paesi confinanti. Staccione e suo fratello Francesco invece decidono di proseguire la loro lotta nelle fabbriche, ma in piazza tutti i giorni. Questa scelta è una scelta coraggiosa, ma alla lunga verrà pagata molto cara da entrambi, questi due uomini così coraggiosi. Una scelta di vita e di impegno civile, quella dei fratelli Staccione. Ancora Veltri. Dal 1936 in poi Vittorio verrà continuamente arrestato, è stato arrestato penso a più di 35 volte, spesso anche per nulla, per semplici screzi nei tanti caffè che Vittorio frequentava a Torino. Verrà spesso intimidito anche dalle camicie nere, e quindi questa sua purtroppo scelta politica, questo suo volersi schierare, nonostante a Torino fosse comunque considerato ancora un giocatore di serie A, comunque un ex giocatore che aveva vinto anche uno scudetto, quindi poteva anche tra virgolette vivere di rendita, tutto ciò no, Vittorio Staccione decide ugualmente di opporsi a quel regime, ovviamente lo paga caro fino a quella data drammatica del marzo del 44, quando partecipa a uno sciopero nelle fabbriche torinesi, agli scioperi delle fabbriche torinesi, e da lì in poi viene arrestato e poi purtroppo portato nel campo di concentramento di Mauthausen. Lutti e miserie senza fine. La parola d'ordine sembra essere una sola: ammazzare. La pena di morte. 4 fucilazioni. 2 condanne a morte. 6 terroristi condannati a morte. 3 condanne alla pena di morte. 2 condanne a morte. 5 condanne a morte. Terrorista passato per le armi. La repressione ora si fa di giorno in giorno più dura. Staccione avrebbe anche la possibilità di fuggire, ma resta, firmando di fatto la propria condanna a morte. A distanza di pochi giorni l'uno dall'altro vengono arrestati nel marzo del 44, Vittorio Staccione viene arrestato su delazione, e l'arresto di Vittorio Staccione è anche un arresto, ha un aneddoto che ho scoperto per certi versi la pelle d'oca, perché Vittorio Staccione viene arrestato, viene portato in caserma e il commissario, praticamente Vigliardi, che conosce bene Vittorio Staccione, conosce bene la storia della sua famiglia, dà la possibilità a Vittorio Staccione di scappare. Gli dice: Vittorio, guarda, dove andrai? Farà molto freddo, torna a casa, prendi qualcosa di pesante perché lì farà molto freddo, puoi tornare a casa da solo e ritorna qui. In pratica un'opportunità di fuga che gli viene offerta, ma Vittorio Staccione torna a casa, prende qualcosa di pesante e ritorna in caserma. Una scelta ovviamente infelice e ingenua che ovviamente poi lo porta agli arresti definitivi e poi verso quel viaggio terribile nel campo di concentramento di Mauthausen. Mauthausen, Austria, uno dei campi di concentramento e sterminio nazifascisti, è la destinazione finale dei fratelli Staccione. Qui, paradosso del dolore, per Vittorio ci sarà pure il tempo di un'ultima, grottesca partita di calcio. Arriva a Mauthausen nel marzo del 44, nel novembre del 44 è costretto a giocare una partita insieme ai soldati tedeschi nel campo di concentramento di Mauthausen, che era un castello, una fortezza praticamente accanto, poche centinaia di metri da questo campo vi è un terreno di gioco, è un campo di calcio, e ogni domenica i soldati tedeschi solevano giocare una partita tra di loro. Se mancava qualche giocatore veniva chiamato un deportato, uno o più deportati che magari avevano avuto un passato sportivo. Nel novembre del 44 Vittorio Staccione viene chiamato a giocare una di queste partite. Considera che Vittorio Staccione in quel momento pesa 40 kg, poco più di 40 kg, perché ovviamente il suo periodo nel campo di concentramento lo ha molto provato fisicamente ma anche psicologicamente, quindi deve essere stato terribile per lui, l'unica partita probabilmente che non avrebbe mai desiderato giocare. L'ultimo incontro tra i due fratelli è carico di dolore e dignità. Dalle testimonianze che ho ascoltato dei sopravvissuti di Mauthausen ho scoperto anche di un incontro proprio pochissime settimane prima che Vittorio Staccione e poi anche Francesco, suo fratello Francesco, morissero. I due sono riusciti anche ad incontrarsi a Gusen, è un sottocampo di Mauthausen distante 4 km circa. Avranno provato ad aiutarsi in tutti i modi, ma poi alla fine però anche loro sono stati costretti a dividersi e ognuno è andato verso il proprio destino. Vittorio Staccione è morto 10 giorni prima circa di suo fratello Francesco per via di una ferita ad una gamba non curata, è morto poi nell'infermeria di Gusen, il Revier, così veniva definito. Una X, una croce, nelle cronache sportive del tempo, a cancellare da quelle pagine sportive a firma fascista la memoria di Vittorio Staccione. Ma quel nome è ritornato alla memoria oggi e sopravvive e rivive. Ce lo ricordano le pietre d'inciampo per le vie di Torino e tante altre iniziative, spiega Francesco Veltri. A Torino vi è una pietra d'inciampo in memoria di Vittorio Staccione, nell'ultima abitazione di Vittorio Staccione Nella Hall of Fame del Museo del Grande Torino la figura di Vittorio Staccione ancora oggi è molto ricordata. A Cremona vi è una targa in sua memoria di fronte allo stadio Zini. A Firenze vi è la figura di Vittorio Staccione ricordata tantissimo, la sua foto nella Hall of Fame accanto a quella di un mito viola come Antonioni. Insomma, diciamo che è una figura importante che per fortuna sta riemergendo dopo tanti anni di silenzio e di oblio, e questo sicuramente è un bel messaggio, un momento sicuramente non facile per il nostro paese. Federico Molinario, pronipote di Vittorio e Francesco Staccione, ci ricorda il senso più alto e profondo del loro sacrificio. Due persone che hanno lottato, due persone di umili origini, quindi si sono fatti praticamente da soli, anche una certa cultura antifascista, hanno contribuito con il loro atteggiamento, con il loro sacrificio, perché alla fine poi purtroppo hanno perso la vita a Mauthausen tutti e due, comunque hanno contribuito a lasciarci un'eredità di democrazia, quindi secondo me il miglior ricordo, la migliore esperienza, la migliore cosa che possono averci lasciato è aver contribuito a fare in modo che noi oggi possiamo parlare, possiamo liberamente esprimerci, possiamo tranquillamente dire la nostra opinione in un sistema democratico. Il loro sacrificio è stato tutt'altro che vano, oggi ne godiamo i privilegi che ci hanno lasciato con la loro vita. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.